Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sono le 9, abbiamo fatto il punto dopo prima fase critica, quindi in particolare dalle 7 alle 8, ma diciamo dalle 7 alle 9, e la situazione stamattina è stata ampiamente sotto controllo, il che ci porterà ad anche maggiore attenzione nei prossimi giorni. Ma in sostanza la preoccupazione per la ripartenza c'era e il servizio è stato buono, ma soprattutto i milanesi si sono comportati in maniera molto diligente. Questa è, diciamo, una certa soddisfazione nelle parole del sindaco di Milano Sala, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, in questo primo giorno della tanto sospirata, agognata, desiderata fase 2, cioè quella della ripartenza graduale, di cui vi sarete accorti più o meno tutti, insomma. E poi Milano, lo sappiamo, è una città particolarmente sotto osservazione, non solo perché è il capoluogo della regione che è stata più colpita dal coronavirus, ma anche perché è la metropoli, è un po' il modello che ci dà l'idea di come si possa effettivamente gestire la ripartenza, a partire anche proprio da tutta la rete dei trasporti fino poi ai luoghi di lavoro, eccetera. Ne parleremo in modo particolare, ma anche di Milano, ma anche di come invece, per esempio, il nodo cruciale, chiave dei trasporti ha funzionato un po' in tutta Italia. Poi torneremo con il portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari della Polizia a ricordare in questa quali sono le regole di questa seconda fase, che erano già state annunciate nei giorni scorsi, vi ricordate, da Conte, ma che poi sono entrate in vigore da oggi. E così facciamo un po' un ripasso dai famosi congiunti, le visite a chi si possono fare e poi la residenza, la possibilità di tornare o no alle seconde case, il muoversi all'interno della regione, per quali motivi ci si può muovere invece tra regioni diverse. Quindi poi, se avete le vostre domande, vi ricordo pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi sempre giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp da inviare al 349 238 6666. Poi Conte, Presidente del Consiglio, oggi, dopo che un movimento man mano ve ne avevo dato notizia nei giorni scorsi, è cresciuto, questo che si chiama hashtag dateci voce, fatto di tantissime associazioni, di donne della politica, della cultura, di uomini anche naturalmente, che hanno chiesto al Presidente del Consiglio Conte di integrare nelle famose task force, tante che sono consulenti del governo e che servono per far ripartire man mano l'Italia, ci fossero anche le donne, visto che in alcune non ce ne sono proprio e in alcune altre pochissimo, giustamente per immaginare il prossimo futuro del paese. Ci mancherebbe che non ci sia accanto a quello maschile anche il pensiero femminile e la presenza femminile. Moltissime altre cose, anche del fatto che la Cina è sempre più nel mirino degli Stati Uniti, ma poi capiremo perché. Quindi vi dicevo 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina Facebook di Effetto Notte. Prima degli approfondimenti, come sempre lo sapete, sintesi della giornata. L'epidemia di Covid-19 in Italia, sono meno di 100.000 i positivi. Lombardia e Piemonte restano le regioni più contagiate, sono 195 i morti nelle ultime 24 ore. Il primo giorno della fase 2 nelle città, prime ripartenze, gente disciplinata su bus e metro per andare al lavoro. Riaprono i parchi ma senza assembramenti, partenze verso il sud ma senza assalto ai treni. E sulle nuove regole più soft tra congiunti e seconde case torna il portavoce dei funzionari di polizia. La Cina nel mirino del mondo. Trump, presidente americano, annuncia un rapporto. Non sono riusciti a nascondere un errore, dice, ma Pechino nega. La ricerca per i vaccini, maratona europea per la raccolta fondi, obiettivo 8 miliardi di dollari, Madonna ne versa un milione. La fase 2 anche per lo sport, dalla corsa al parco fino alla Pellegrini e al mondo del calcio. Partiamo quindi come sempre dai dati forniti dalla Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Una giornata molto attesa, naturalmente quella di oggi, dicevamo, per l'inizio della fase 2, ma appunto cominciamo prima dai numeri giornalieri sull'epidemia di Covid-19. L'Italia entra nella fase 2 con la spinta di un dato. Per la prima volta scende sotto la soglia dei 100.000 il numero delle persone attualmente contagiate. È stabile la curva dell'epidemia, secondo il bollettino della Protezione Civile. 1.221 i nuovi casi, 195 i decessi. Sempre troppi, ma comunque in diminuzione. Agli opposti ci sono, da un lato, le quattro regioni con zero contagi, Molise, Basilicata, Umbria e Sardegna, dall'altro la Lombardia con 500 577 nuovi positivi, 186 dei quali nella provincia di Milano. Un quadro dunque molto diverso che spinge alcune regioni a sollecitare nuove aperture. In Sardegna, ad esempio, già l'11 maggio dovrebbero riaprire i parrucchieri. In Sicilia il governatore sollecita un incremento dei collegamenti. Un paese dunque che resta in situazioni molto differenti, come all'apice dell'epidemia, quando il coronavirus ha fatto registrare il doppio dei morti. Ma se a Bergamo la percentuale dei decessi è salita del 568% rispetto all'anno prima e a tre cifre è stata anche a Brescia, Cremona, Lodi o Piacenza, a Roma o al sud è talvolta perfino diminuita. Tra due settimane invece avremo la fotografia della fase 2. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi quindi i numeri di oggi, di fronte ai quali si è allentato, a partire appunto dalla giornata di oggi, il lockdown per cominciare gradualmente a ripartire. Più auto, pochi pendolari sui mezzi pubblici, lunghe code alle stazioni di metro e bus, in generale rispetto delle regole di distanziamento e poche criticità. Da nord a sud del paese il sistema di trasporti il primo giorno della fase 2 sembra reggere. A Roma traffico più intenso, soprattutto sul raccordo anulare, lunghe code alle stazioni della metro per i sindacati a volte non rispettose della distanza di sicurezza. A Napoli il sindacato di base segnala centinaia di passeggeri costretti a viaggiare ammassati a bordo del treno della ferrovia Cumana, che collega l'Interland con il capoluogo. Traffico più intenso a Bari, a Palermo e lunghe code davanti ai bar aperti dove da oggi è possibile anche l'asporto. Più movimento ma nessuna criticità a Bologna, così come a Trieste, a Firenze, a Torino. Qui l'appello della sindaca Appendino a usare anche la mobilità alternativa. Chi può e nelle condizioni di poterlo fare, utilizziamo mezzi alternativi, sostenibili, individuali, come la bicicletta o il monopattino. Anche Venezia saluta la fase 2 con un flash mob sul ponte di Rialto. L'applauso di protesta degli imprenditori che vogliono riaprire, mentre il governatore del Veneto Zaia prescrive mascherina e guanti obbligatori. I cittadini uscendo di casa la debbono indossare con l'esonero parziale, temporaneo, per coloro che fanno attività fisica intensa. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Poi parleremo in particolare di come è andata a Milano per i trasporti e poi tornerà anche però per, diciamo, così una visione più nazionale, il presidente di Astra, che è l'Associazione Nazionale delle Aziende di Trasporto Pubblico Locale. Prove di ripartenza quindi nelle città, ma la vera ripartenza ovviamente sarà possibile solo quando saranno messi a punto il vaccino e le cure per il coronavirus. E proprio per questo obiettivo oggi è scattata la gara di solidarietà promossa dall'Europa. 7 miliardi e 400 milioni è quanto l'Europa ha raccolto nel pomeriggio durante la conferenza internazionale dei donatori per la ricerca e lo sviluppo di un vaccino contro il Covid-19. Ad aprire i lavori, la presidente della Commissione von der Leyen, che ha annunciato lo stanziamento di 1 miliardo da parte di Bruxelles. Il 4 maggio segnerà una svolta nella lotta contro il coronavirus. I partner sono molti, ma il fine è unico, ha detto. Il pomeriggio ha visto un alternarsi di leader in collegamento. La cancelliera tedesca Merkel ha annunciato la donazione di 525 milioni. Berlino investirà un altro 1,3 miliardi nella sanità globale. La France engagerà 500 milioni. Cifre molto simili a quelle promesse dal presidente francese Macron. Anche da Parigi 500 milioni per la ricerca europea sul vaccino e 1,2 miliardi per il sostegno al sistema sanitario in Africa. Il premier Conte ha sottolineato come la cooperazione internazionale sia la chiave per vincere questa crisi. Da Roma 140 milioni per la ricerca. Conte ha aggiunto che l'Italia userà la prossima presidenza del G20 per esercitare un ruolo guida. Dalla Gran Bretagna l'impegno a finanziare con circa 450 milioni la ricerca. Serve uno sforzo globale, non una competizione tra paesi, ha detto il premier Johnson. Assenti ingiustificati gli Stati Uniti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il presidente del Consiglio Conte ha accolto oggi l'appello del movimento hashtag dateci voce di molte personalità della cultura, dello spettacolo, della politica e delle 16 senatrici che chiedono che ci sia parità di rappresentanza nelle varie task force che stanno organizzando in Italia l'uscita dell'emergenza e il prossimo futuro del nostro paese. Conte ha detto chiamerò oggi stesso Vittorio Colao, che è il coordinatore della task force per la fase 2, e Angelo Borrelli, come sapete, il capo della protezione civile. Parleremo poi nel corso di questa puntata con una delle firmatarie. La situazione economica in Italia, a partire dai dati del Centro Studi di Confindustria, che ha parlato di una produzione dimezzata a marzo e aprile. Le misure restrittive, spiega Confindustria, hanno prodotto una caduta dell'attività senza precedenti. La fine del lockdown, prevede ancora Confindustria, a partire da oggi non genererà un veloce recupero, perché le famiglie continueranno a essere prudenti e le imprese dovranno smaltire le scorte che si sono accumulate negli ultimi mesi. E l'INPS ha fatto sapere intanto di aver ricevuto quasi 4 milioni 800 mila domande di indennità di 600 euro destinate ai lavoratori autonomi, più di 1 milione quelle invece respinte. Quella che ci ha colpiti è dunque una crisi economica senza precedenti e il governo è impegnato su questo fronte col decreto aprile diventato ormai decreto maggio. Governo al lavoro per sciogliere gli ultimi nodi del decreto maggio. Nella maggioranza restano le distanze sul reddito di emergenza e incentivi alla ricapitalizzazione per le piccole e medie imprese, mentre c'è l'accordo nel portare a 14 miliardi i fondi per la cassa integrazione. Sul provvedimento ci sarà un nuovo confronto con le parti sociali. L'obiettivo è approvarlo entro mercoledì, fa sapere il ministro dell'Economia Gualtieri. Ci saranno misure anche molto importanti a sostegno delle imprese, anche sotto forma di contributi a fondo perduto e di sostegno alla capitalizzazione, agli investimenti, all'innovazione. Tra le varie misure a sostegno delle imprese ci sarà anche il rifinanziamento del fondo per le garanzie sui crediti, aggiunge il ministro delle attività produttive Patuanelli. Destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo in modo da raggiungere sostanzialmente questo importo di 7 miliardi complessivi. La ministra Bellanova intanto chiede di inserire nel decreto la sanatoria per i lavoratori stranieri irregolari, colf e braccianti, oltre 600.000 persone alle quali verrebbero concessi permessi di soggiorno temporanei di 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla reazione dei mercati. Oggi seduta molto pesante per Piazza Affari, con l'indice FTSE MIB che ha chiuso in ribasso del 3,7%, giù anche le altre borse europee. Parigi ha perso oltre 4 punti percentuali. All'estero, nel mondo, sono oltre 3 milioni e mezzo i casi di coronavirus, tre quarti dei quali in Europa e negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti quasi 68.000 le vittime, più di 140.000 in Europa. Molti stati però, proprio come l'Italia, provano a riaprire. In Francia la ripartenza è confermata per l'11 maggio, ma si apprende quel giorno a scuola torneranno solo gli insegnanti, mentre gli studenti sono attesi per il 14. Ieri la sindaca di Parigi, con 300 colleghi dell'Île-de-France, aveva solennemente chiesto allo Stato di rinviare la ripresa scolastica. E se Lussemburgo annuncia la fase 3 con la fine del confinamento a partire dall'11 maggio, in Germania oggi è riaperte le scuole per i più grandi, mentre il 6 maggio si deciderà se far tornare tra i banchi anche i bambini di elementari e asili nido. In Spagna la ripartenza sarà graduale a seconda dei territori, a riaprire oggi per prime alcune isole delle Canarie e delle Baleari, Formentera compresa. In Olanda, scolari di elementari e medie tra i banchi l'11 maggio, mentre per le superiori si aspetterà l'inizio di giugno. In Belgio, allentate sempre da oggi alcune misure di confinamento, permesse le passeggiate e attività fisica all'aperto, il trasporto pubblico ha ripreso normalmente. E se si attende ancora la fase 2 nel Regno Unito, nel resto del mondo il Giappone conferma lo stato di emergenza fino al 31 maggio, mentre a Dubai è stato ufficialmente annullato l'Expo Universale del prossimo ottobre. Riaperte dopo 3 mesi tutte le scuole in Vietnam, che nelle ultime 24 ore non ha avuto né un contagio né una vittima. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E la Cina è nel mirino del mondo. Il presidente americano Trump annuncia un rapporto che è nelle mani degli 007 americani, dice, secondo il quale non sono riusciti in Cina a nascondere un grave errore. Pechino però nega, e anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità smentisce gli Stati Uniti. Poi però ci collegheremo direttamente con il nostro corrispondente da New York per avere maggiori dettagli. E c'è una denuncia shock dell'organizzazione non governativa per i diritti umani, Human Rights Watch, per quanto riguarda la Siria, l'esistenza di una vera e propria foiba degli orrori, contenente i resti di migliaia di persone, di corpi dal 2012 gettate, morte o addirittura ancora vive da miliziani, jihadisti e dell'ISIS, è stata denunciata oggi nel nord della Siria, appunto, da Human Rights Watch. Nella stessa regione di Raqqa, nell'estate del 2013, era scomparso, ricordate, il gesuita italiano Paolo Dall'Oglio, da più parti indicato come catturato dal sedicente Stato Islamico. I ricercatori di Human Rights si sono potuti recare sul terreno nel distretto frontaliero di Tal Abyad, in una zona oggi controllata da forze locali cooptate dalla Turchia, e documentare in prima persona, con l'aiuto di un drone, l'esistenza di corpi in stato di decomposizione nel cratere profondo fino a 50 metri. Si tratta di un inghiottitoio naturale molto noto col nome di Al-Ota alla popolazione locale, prima delle violenze scoppiate nel 2011, la caverna era rifugio di colombi. In tutto sono stati gettati nella gola circa 3.000 persone ancora vive, raccontano alcune fonti. Torniamo di nuovo sulle riaperture sul nostro paese. Da noi una riapertura ancora tutta da inventare. Oggi la protesta dei sindacati. Senza protocollo di sicurezza non c'è alcuna possibilità di fare la maturità in un'aula, denuncia la CGIL Scuola. Ci vuole un commissario e servono almeno 12 miliardi per organici, ristrutturazione degli istituti e mascherine e guanti. E invece il calcolo della CIS Scuola. Sentiamo la segretaria generale Maddalena Gissi. Una quantità a spanne solo per la primaria infanzia e solo con personale supplente per i 10 mesi dell'anno scolastico che verrà vanno via più di 3 miliardi, più il personale ATA. Se si dovesse fare un'operazione di sdoppiamento nelle classi della secondaria di secondo grado ci servirebbero sicuramente molti più miliardi. E adesso una raccomandazione dell'Istituto Superiore di Sanità in occasione domani della giornata mondiale dell'igiene delle mani. Le mani curano, danno assistenza e conforto, ma vanno anche curate perché sono la prima arma a disposizione di tutti per la difesa da tutte le infezioni a partire dal Covid. Questo è il messaggio appunto realizzato in un video dall'Istituto Superiore di Sanità e diffuso su canali social con l'hashtag non solo mascherine. In Italia ogni anno vengono stimati 200.000 casi di infezioni da germi resistenti, 4 persone ogni 100 nelle lungodegenze, 6 pazienti ogni 100 in ospedale o a domicilio hanno un'infezione correlata all'assistenza. Il 30-50% di queste potrebbe essere prevenibile e uno dei modi principali è proprio l'igiene delle mani. Per chiudere lo sport, anche nel mondo dello sport naturalmente c'è tanta voglia di ripartire. Ma devo dire che c'è solo da riprendere un po' di fiato, un po' di sensibilità. Sono contenta, dai, pensavo peggio. La soddisfazione di Federica Pellegrini, di nuovo in vasca a Verona, l'emozione di Filippo Tortu, salutato con applausi e tricolori dai palazzi delle case che circondano il suo campo di allenamento nel milanese. Dalla base al vertice della piramide l'Italia riparte anche attraverso i suoi sportivi. Fatica invece a mettersi in moto il calcio che pure per popolarità, introiti e indotto è il cuore del sistema. Certo, i giocatori stanno riprendendo le sessioni individuali di allenamento, ma su protocollo medico e conseguente ripresa del torneo sempre più difficile trovare un punto d'incontro tra vertici calcistici e comitato scientifico. E all'estero non va meglio. Pur decisa a ripartire a fine maggio, la Germania ha registrato ai primi test una decina di positivi tra i calciatori di prima e seconda divisione. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, qui direi che si chiude la sintesi della giornata, anche se vi devo dare un aggiornamento adesso di un crollo di una palazzina a Marino, vicino Roma, per una fuga di gas. È stata estratta, questa è la notizia che c'è, una bambina dalle macerie. Vediamo se c'è qualche dato in più, al momento non mi sembra, comunque seguirò naturalmente in diretta. Siamo insieme, ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ecco subito Roberto Giordano di nuovo con voi, naturalmente ad accompagnarvi come sempre da lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 attraverso le notizie più importanti di tutta una giornata dall'Italia e dall'estero, in particolare naturalmente da molto tempo purtroppo legate per lo più al coronavirus, anche se vi aggiornavo poco fa su una notizia che riguarda sempre una cosa negativa, ma il crollo di una palazzina vicino Roma, nel centro di Marino. Ci sarebbero una donna in gravi condizioni e una mamma con una bambina ferita in maniera non grave in questa esplosione avvenuta questa sera appunto nel centro di Marino. Quanto risulta dalle primissime informazioni, sul posto i vigili del fuoco, carabinieri, polizia 118, i vigili del fuoco stanno scavando tra le macerie per cercare eventuali altre persone coinvolte. Tra le ipotesi che sono alla base di questa esplosione potrebbe esserci stata una fuga di gas. Adesso vi ricordo per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Tra i tanti messaggi, questo ascoltatore dice: sta sorgendo un nuovo caso, tutti quelli che scendono al sud risultano positivi dal tampone, come mai? No, adesso non esageriamo, qualcuno, siccome stanno facendo dei controlli e molti stanno scendendo verso sud, qualcuno risulta positivo, non tutti, e adesso non abbiamo dei dati precisi in questo momento, ma dire tutti è una follia. E poi invece qualcuno che già sta chiedendo l'attività fisica, si può fare, non si può fare, con mascherina, senza mascherina. Mi dico già che correre lo si fa senza mascherina, altrimenti si rischia un infarto. Però poi sentiremo il portavoce dei funzionari di polizia. Adesso invece ci occupiamo di questo inizio, appunto, oggi della sospirata fase 2. È partita diciamo la prima tranche, perché sapete che poi la seconda tappa sarebbe il 18 maggio e poi una terza il 1 giugno, naturalmente sperando che tutto vada per il meglio. Quindi l'Italia è ripartita, almeno in parte, ovviamente dopo questo tsunami che ha stravolto il mondo e ha colpito il nostro paese così violentemente. Bisogna partire gradualmente, perché non si può considerare, non è considerabile purtroppo battuto il nemico. Quindi al momento si riparte con gradualità, con tutte le misure necessarie di sicurezza, no? Poi sulle nuove regole e gli allentamenti, eccetera, dicevo, sentiremo il portavoce dei funzionari di polizia. Dicevamo nei giorni scorsi che sicuramente nodo cruciale, un elemento chiave di questa ripartenza, di questa fase 2, erano e sono i trasporti, il trasporto pubblico, tanto che le associazioni nazionali delle aziende di trasporto pubblico locale la scorsa settimana avevano lanciato l'allarme: non siamo ancora pronti, non c'è ancora la possibilità di controllare le misure di sicurezza, il distanziamento, che tutti abbiano la mascherina. Proprio qui Effetto Note aveva lanciato questo allarme il presidente di Astra, che poi sentiremo tra poco, Andrea Gibelli. Però intanto concentriamoci su una città simbolo, anche nostro malgrado, diciamo, di questa epidemia, di questa pandemia in Italia, che è Milano, perché è simbolo naturalmente della regione più colpita, ma è anche la metropoli alla quale si guarda come modello di ripartenza, per vedere se in una situazione, in una città così complessa, si riesce effettivamente a gestire la ripartenza. E ne voglio parlare con la nostra Rosanna Magnano. Ciao Rosanna. Ciao, buonasera. Rosanna è andata proprio oggi, si è andata a vedere, no, nelle stazioni della metropolitana, la stazione centrale, che insieme a Termini di Roma è la maggiore stazione, crocevia dei treni, delle ferrovie in Italia. Intanto, metropolitane, come le trovate, le persone, come si comportavano, Rosanna? Allora, diciamo che la situazione era veramente sotto controllo, come ha poi ribadito sia l'ATM sia poi ha commentato subito il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Effettivamente era una situazione non solo ben gestita ma anche gestibile, devo dire, perché è vero che c'è stata una buona organizzazione, giudicata e commentata da tutti, efficiente, insomma, della segnaletica, dell'organizzazione dei flussi in entrata e in uscita, c'era anche una buona vigilanza e le persone erano anche seguite, più che controllate, erano accompagnate e in qualche modo guidate, ecco, verso il rispetto delle regole. Ha prevalso più questo approccio più che l'approccio di controllo. Però ecco, se diciamo comunque il sistema è stato organizzato bene e ha funzionato, infatti, però è anche vero che questa è stata un po' una mini ripartenza, le persone erano davvero poche, cioè non c'è stata una cascata, non c'è stato un mondo che si è mosso. Anche perché ricordiamo, quindi, perdonami Rosanna, che in tutta Italia sono tornate al lavoro 4 milioni e mezzo di persone, quindi in tutta Italia, è vero, la maggior parte al nord, probabilmente un buon numero in Lombardia, però mancano tanti all'appello, nel senso tanti stanno facendo smart working, qualcuno non può riaprire la sua attività, per cui non ha preso stamattina i mezzi di trasporto pubblico e non è tornato con i mezzi di trasporto pubblico in serata, mancano anche gli studenti perché sono chiuse le scuole. Quindi diciamo una prima così test positivo, però tu ricordavi non è che ci fosse tutto il mondo ancora in giro, no? Sì, esattamente, insomma, di norma di questi tempi, negli orari di punta che in cui io sono andata in giro, effettivamente c'era in tempi normali davvero una calca. Non c'era perché ancora sono vigenti molte restrizioni. Però ecco, è un bene che questa ripartenza sia stata graduale, proprio per testare il sistema. C'è da dire che le persone sono state disciplinate, ho visto che comunque venivano rispettate anche le indicazioni sul pavimento, no? Che sì, distanziavano anche le persone in attesa sulla banchina. E l'unico, diciamo, neo, se si può dire così, evidentemente però dovuto anche al fatto che l'ordinanza su Le norme da rispettare è arrivata al 1° maggio, quella della Regione Lombardia, che prescriveva l'obbligo di mascherine e anche guanti. Se ne è parlato ovviamente, però diciamo che un 30% grosso modo i guanti non li portava, mentre le mascherine assolutamente sono state recepite dal 100% dei passeggeri. Chiaro, grazie Rosanna Magnano. Grazie Rosanna del tuo racconto di oggi a Milano. E a proposito invece di una, così, di una visione più nazionale, allora coinvolgo di nuovo, è tornato Andrea Gibelli, che è presidente di Astra, che è l'associazione dei trasporti, delle associazioni datoriali nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia. Buonasera Gibelli, bentornato. Buonasera a voi. Quindi la collega intanto parlava della questione delle mascherine, che quando lei è stato qui ospite a Effetto Notte diceva nell'allarme che avevate lanciato che probabilmente non era stato ancora chiarito che era obbligatorio e che c'era il rischio che sui mezzi di trasporto di pubblico locale le persone non la mettessero. Invece questa cosa almeno a Milano sembra che sia andata bene. Lei invece a livello nazionale che cosa dice, com'è andata oggi Gibelli in questo primo giorno? Indubbiamente il tema delle mascherine si è risolto e per noi è un sollievo. A livello nazionale ho avuto riscontri di tutte le principali aziende che operano sul territorio nazionale. Situazioni di crisi non ce ne sono state e quindi possiamo considerare il primo giorno come un giorno dove lo iscriviamo nel registro della cauto ottimismo. Bene, cauto ottimismo è già molto, no? Per una prima giornata. Un altro delle criticità che lei aveva avanzato prima che il tutto partisse nei giorni scorsi era, le diceva, forse non siamo ancora pronti, non avendo la possibilità di fare controlli stringenti sulla questione del distanziamento nei mezzi pubblici. Da questo punto di vista, com'è andata? Diciamo che si è aggiunta la disponibilità al coinvolgimento della protezione civile, perché ripeto non abbiamo personale in grado di aiutare le persone a raggiungere i mezzi, quindi si è aggiunto questo dato che non avevo durante l'ultimo intervento che abbiamo fatto insieme e poi il tema del distanziamento che rimane, perché c'è da rilevare una questione, che oggi è il primo giorno, non hanno aperto ancora tutte le attività, molti per questioni di psicosi, comprensibilissima, hanno deciso di usare i mezzi e lo testimonia un incremento elevato del traffico sulle tangenziali e in genere nel paese. Cioè dice molti hanno usato il mezzo privato, la macchina o la moto, lo scooter, qualcuno in città la bicicletta per esempio, il monopattino. Diciamo che l'uso dello scooter e chi può della bicicletta ha fatto un gran bene. L'uso delle automobili, soprattutto per l'extraurbano, è un elemento che ci aspettavamo e lo confortano i dati. Quello che c'è da capire da domani in poi, dato che il dato vero di questa sera è che siamo già al limite della capacità dei mezzi. Cioè, quello che rilevo è che rispetto alle attuali norme di distanziamento di un metro, i viaggiatori sono già nella capacità massima che i mezzi possono occupare. Quindi domani, se si aggiungesse, ipotizzo, un 10%, saremmo già oltre il limite della capacità dei mezzi. Quindi mi auguro che questa questione porti le istituzioni a rivedere pian piano, in base ai dati che gli forniamo in tempo reale, fare tesoro tanto di un senso di civiltà che i cittadini stanno dimostrando, perché senza di loro le aziende del trasporto non esisterebbero in radice, il loro comportamento è esemplare. Però per portarne di più dobbiamo in qualche modo rivedere le linee guida. chiarissimo Gibelli, lei dice appunto che oggi cauto ottimismo per come sono andate le cose, però poi dobbiamo immaginarci anche quando ci sarà a pieno regime la circolazione, no, di cittadine e cittadini dappertutto, perché adesso è soltanto una piccola parte, dicevamo solo 4 milioni e mezzo sono tornati al lavoro, non ci sono gli studenti, tantissimi, quindi dice, quando si riaprirà completamente la questione sarà un po' più complessa. Lei giustamente sottolinea, quindi cerchiamo di prepararci, perché questo è stato un piccolo test e poi bisognerà vedere quando saremo tutti di nuovo in circolazione, no? Giustamente, Gibelli. Sì, ci sono due considerazioni da aggiungere. Sì. Oggi fa testo, diciamo, l'educazione, come dicevo prima. Da domani in poi bisognerà capire entro la settimana dove ci si attesta, ma contestualmente c'è da preparare il sistema del trasporto pubblico locale alla seconda apertura del 18, che è, come diceva lei, una fase significativa della progressiva riapertura. Chiaro. La ringrazio moltissimo e le auguro ancora buon lavoro, Andrea Gibelli, presidente di Astra. Grazie. Grazie a voi e buonasera. Grazie mille. Grazie. Allora, ringrazio anche Paolo per il suo bellissimo messaggio, mentre Renzo scrive, lo vedo adesso, dice, le mando le foto, che però non ho ricevuto, di bus padovani e vaporetti veneziani stracolmi di persone sedute e in piedi. Voglio sperare che non sia vero e che naturalmente Zaia, molto severo su queste cose, intervenga se fosse così. Comunque, per il momento ci lasciamo per una brevissima pausa di riflessione. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Ancora vedo varie domande, ma tra poco torna appunto Girolamo Laquaniti, presidente e portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, a dare risposte alle vostre domande, naturalmente se sono in tema, sulle nuove regole, sugli allentamenti, su cosa bisogna rispettare adesso. Ci sono naturalmente regole più soft, però ci sono, dice un ascoltatore, chiedo se è possibile intervenire riguardo una questione della ripresa della fase 2. Ne ha facoltà, può scrivere o attraverso SMS e WhatsApp al 349-238-6666, dicevo, pagina Facebook di Effetto Notte. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, dove altro potreste essere per essere costantemente aggiornati, fine giornata, scusate il bisticcio di parole, sulle cose più importanti da sapere dall'Italia e dall'estero, in particolare in questa situazione così difficile che stiamo vivendo tutti da un po' di tempo, se non qui a Effetto Notte, con voi sempre Roberto Giordano a raccontarvi le cose più importanti e ad approfondire con gli ospiti alcuni temi in particolare. Quindi abbiamo parlato già inizialmente della fase 2, di questo primo giorno, di come è andata in particolare per un elemento chiave come sono i trasporti pubblici, il trasporto pubblico locale in particolare su Milano, ma poi anche a livello nazionale col presidente di Astra. Allora, gli italiani sono responsabili, si sono comportati molto bene in questi due mesi e mezzo, ma provati dal lockdown. Sono sempre più preoccupati per le ricadute economiche, naturalmente, della crisi, sperano nel progressivo alleggerimento delle misure restrittive per riconquistare le loro libertà personali. A indicarlo è l'indagine condotta dall'Università Statale di Milano nell'ambito del progetto di ricerca Response Covid-19, che è volto a sviluppare un'infrastruttura di ricerca per il monitoraggio quotidiano dell'opinione pubblica durante questa emergenza del Covid-19. Il bilancio della fase 1, abbiamo parlato più volte dei controlli, dei dati del Viminale, delle sanzioni che sono state fatte in questa fase di pesanti restrizioni, naturalmente, per tutti. Ebbene, i dati sono, riguardano 12 milioni di persone controllate con 424.000 denunciati, quindi 424.000 sanzioni. E ora, oggi è stato l'esordio della fase 2, i numeri delle prefetture affluiranno domani al Viminale, al Ministero dell'Interno, ma la prima impressione, come avete sentito anche prima, è che l'esordio di questa fase 2 sia filato piuttosto liscio, senza troppe folle da disperdere per le forze dell'ordine, né particolari disagi per i cittadini. Da oggi quindi, come sapete, si sono leggermente allentati i divieti, le strade e le città si sono ripopolate, anche i parchi, non troppo per fortuna, per esempio ho visto anche qua a Milano, io finalmente sono tornata a correre nel mio parco preferito e c'era davvero pochissima gente. Allora, ovviamente, per ricordare quali sono le nuove regole, chi posso far intervenire, chi posso coinvolgere se non il dottor Girolamo Laquaniti, portavoce dell'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia. Dottor Laquaniti, bentornato. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori, tanto grazie. Allora, so che comunque oggi, nella circolare inviata ieri ai prefetti si invitava poi da oggi alle forze dell'ordine a una valutazione prudente ed equilibrata dei singoli casi, no? Niente irruzioni nelle chiese, inseguimenti di runner nei parchi o sulle spiagge, quindi nel mirino ci sono più gli assembramenti, mi sembra, tanto per fare inizialmente un discorso generale, Laquaniti? Esatto, diciamo che la circolare che il gabinetto del ministro degli interni, il prefetto Piantedosi, così come la circolare del prefetto Papa per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Questori, ha indicato espressamente nell'ambito dei controlli severità per quanto riguarda gli assembramenti delle persone, mentre ha invitato a una valutazione elastica e prudente di quelle che sono le necessità. Questo perché lo dico brevissimamente? Perché in questa fase 2, soprattutto in questa fase 2, è estremamente difficile che un DPCM così ampio possa poi far luce su singoli casi concreti. Quindi i singoli casi concreti, quelli più particolari, quelli dove magari ci sono due persone separate da pochissimi chilometri che però segnano la distanza tra una regione e un'altra, devono essere interpretati dalle forze dell'ordine con elasticità e comprensione, sono le parole testuali. Per esempio, se qualcuno abita a Lodi e vuole andare a Piacenza, che sono lì al confine, no, tra Lombardia ed Emilia Romagna, si può, se sono pochi chilometri alla fine, perché scavalca una regione. Sì. Lei ha citato una città a cui sono straordinariamente legato perché ho lavorato lì per appena 17 anni. Piacenza, per chi la conosce, è assolutamente a ridosso della Lombardia. Tanto che molti la confondono anche pensando che sia in Lombardia, qualcuno dice Piacenza è in Lombardia. Bisogna ripassare Guccini tra la via Emilia e West quando citava da Bologna a Piacenza, anch'io comunque ero convinto che fosse in Lombardia quando mi ci hanno mandato, ma al di là di questo è chiaro, faccio l'esempio, che Tarrocco al Porto, che è un comune che dista un chilometro scarso da Piacenza, se lì ci sono i nostri affetti, ci sono i nonni che non vedono i nipoti da messo, è chiaro che l'indirizzo che viene dato espressamente dai nostri vertici è quello di essere comprensivi ed elastici. Lo stesso vale per tantissime altre realtà dove pochi chilometri magari segnano il confine, ripeto, tra una regione e un'altra, ma in questo caso le forze dell'ordine dovranno, perché queste sono le direttive, essere comprensivi ed elastici. Caso diverso ovviamente nel momento in cui le distanze chilometriche, le differenze di regione dimostrano che non si è compreso che l'elasticità non vuol dire consentire qualunque comportamento. E infatti, dottor Laquaniti, ricordiamo, poi andiamo sugli altri temi, che tra regioni in realtà non ci si può ancora spostare, tant'è che mi pare che siano anche aumentati i controlli ai caselli, no? Nelle stazioni autostradali, proprio perché al momento non è consentito se non è per gravi problemi di salute o di lavoro. Esatto, oppure nel momento in cui, e questo interessa tante persone, non sia necessario per raggiungere il proprio domicilio, la propria residenza o la propria abitazione. Tradotto, il lockdown, quello famigerato di marzo, ha costretto magari tante persone che si trovavano al nord nella maggioranza dei casi per motivi di lavoro a trovarsi in regioni che non erano quelli della propria residenza o del proprio domicilio, senza lavoro e senza la possibilità di tornare. In questo caso questa fase seconda consente a ciascuno di ricongiungersi o con i propri cari o ritornare al proprio domicilio o alla propria residenza di origine, però qual è il concetto chiave? Che lì bisogna permanere almeno fino al 17 maggio, non è possibile fare avanti e indietro. È consentito uno spostamento, come recita il DPCM, per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Parole testuali. Dottor Laquaniti, Laura chiede, dice: io abito a Milano, lavoro a Milano, sono in affitto, la mia residenza però è in Toscana, lì ho la mia casa, posso andare e tornare? Andare sì, sicuramente può andare, il problema è sul fatto del rientro. Tradotto, è un po' il problema che riguarda anche, in modo tale che ci mettiamo avanti su altri eventuali quesiti, sulle seconde case. L'idea di poter fare avanti e indietro dalla seconda casa, dalla residenza al domicilio, non è possibile. Si può fare avanti e indietro nel momento in cui, per motivi di lavoro, si è costretti magari al pendolarismo, ma non è possibile, almeno per le prossime 2 settimane, fare avanti e indietro tra residenza e domicilio se non ci sono motivi specifici e particolari. Chiaro, dottor Laquaniti. Ecco, adesso ritorniamo alle visite ai congiunti. Sappiamo che ci sono stati tanti problemi, polemiche, anche ironia su questa storia dei congiunti. Si è capito praticamente che si arriva ai congiunti fino a cugini di sesto grado, che i fidanzati e le fidanzate sono compresi, di qualsiasi sesso, ovviamente, naturalmente, ognuno ha il proprio compagno o compagna al di là delle scelte sessuali, però non gli amici. Giusto? Allora sì, questa è assolutamente corretta l'interpretazione. Allora, io intanto, a proposito dell'ironia che ci sta tutta, scherziamo anche tra di noi addetti ai lavori, però vorrei provare a spostare, non ci riuscirò ma ci provo, l'asticella su un piano un po' più alto. Giustamente moltissimi mi hanno chiesto: ma voi come fate a stabilire se è un legame stabile, se è veramente una fidanzata e non appartiene a un'altra categoria di intrattenimento provvisorio? Allora, io su questo vorrei fare un ragionamento serio, se mi riesce, e cioè che qui il problema non è vedere quello che la polizia può controllare o non può controllare, perché è evidente a tutti che noi non possiamo fare un processo a ogni controllo per verificare la stabilità della relazione sentimentale. Qui il problema è che non è che quello che può essere controllato dalla polizia allora è vietato e quello che non può essere controllato allora è concesso. È un po' come dire che gli italiani non rubano solo perché hanno paura di essere presi da noi. In realtà la stragrande maggioranza degli italiani non ruba perché è onesta. Allo stesso identico modo, il fatto di poter raggiungere il proprio compagno stabile è un atto di responsabilità nel momento in cui, giustamente secondo me, il legislatore ha dato la possibilità di ricongiungersi con quelle persone con cui c'è un rapporto di mutualità reciproca, come dice la Cassazione, che vuol dire un rapporto dove il nostro compagno, la nostra compagna, come diceva giustamente lei, a qualunque sesso appartenga, è la nostra, il nostro primo soggetto, il nostro primo punto di riferimento per quanto riguarda l'assistenza, la cura e il supporto. In questo credo sia il grande passaggio, dove più del controllo della polizia conta il senso di responsabilità. Allora, dice un ascoltatore, i fidanzatini di 16 anni sono affetti stabili, permessi, dice lui, però credo che ci sia una questione di maggiore età. Ma allora, su questo provo a essere chiaro senza essere sgradevole. Allora, qui, per quanto riguarda i minori, non si tratta di giudicare la qualità dei sentimenti, perché anzi, spesso come ci si innamora a 16 anni magari non ricapita più a 40 e oltre. Qui è proprio un discorso giuridico, nel momento in cui il legislatore non ha parlato semplicemente di legami affettivi, ma di legami affettivi stabili, e nelle nostre circolari sono proprio richiamate le sentenze della Cassazione. Ora, come dicevo prima, le sentenze di Cassazione hanno equiparato i nostri compagni, le nostre compagne, ai congiunti nel momento in cui c'è questo rapporto di mutualità. Io prima di sposarmi, mia moglie mi accusa sempre di aver trascinato la convivenza per troppi anni, avevo comunque in quella che all'epoca era la mia compagna il mio primo riferimento per quanto riguarda l'assistenza e la cura. Okay? È ovvio che per i minori il primo punto di riferimento per quanto riguarda l'assistenza e la cura ovviamente sono i genitori, l'affidatario o il tutore, come dice la norma. Quindi, a scanso di equivoci, non è che il legislatore ha sottovalutato l'importanza degli affetti nei minori, semplicemente è difficile immaginare una relazione stabile, intesa come una relazione in cui il compagno è il primo soggetto che si prende cura di noi, quando i minori, per legge, devono essere curati dai genitori. Spero di essere stato chiaro. È stato talmente chiaro che un ascoltatore scrive: Girolamo Laquaniti for president. Non so se le può interessare diventare primo paio. Comunque, for president, problema di cosa? Ecco. Allora, poi c'è un altro ascoltatore, Alvise, che dice: cara Roberta, il mio quesito per il portavoce, eccetera, eccetera, è se anche in Lombardia è concesso non indossare la mascherina durante l'attività sportiva, nello specifico per andare in bici. Allora, sicuramente, lo dico, mi perdoni se la precedo, Laquaniti, per correre non si può mettere la mascherina. Io sono una runner da tanti anni, mi verrebbe un infarto come a chiunque altro di correre con la mascherina. Con la bicicletta invece c'è una differenza, dottor Laquaniti? Questo dipende esclusivamente da quello che normano, cioè dalle norme stabilite o dalle regioni o dai singoli comuni. In ambito nazionale, l'uso della mascherina è prescritto solo nei luoghi aperti al pubblico che siano, come si suol dire, contingentati, cioè i negozi, per esempio, oppure i mezzi del trasporto pubblico. Per quanto riguarda specifiche disposizioni in quelli che sono i luoghi pubblici, la passeggiata, la corsa, quindi quando ci troviamo all'aperto, ma non è un luogo, come posso dire, dove si accede in modo contingentato uno alla volta come è previsto, la mascherina può essere resa obbligatoria solo da disposizioni locali. A livello nazionale no. Bisogna vedere singolarmente o regione o anche comune, perché ho conoscenza di alcune ordinanze sindacali, cioè fatte dai sindaci, che hanno prescritto anche le mascherine, mi dispiace per lei, anche per qualsiasi attività di natura sportiva o attività motoria. Quindi posso dirle che, con tutto il rispetto per quelli che emettono queste ordinanze, forse non hanno mai fatto sport vero all'aria aperta, correre con una certa intensità, perché io ritengo che sia veramente pericoloso tapparsi naso e bocca e dover respirare 10 volte di più. Comunque non voglio... Io concordo anche per portare in bicicletta, io l'ho portato in bicicletta mio figlio e anch'io ho sperato la rischia, crisi cardiaca. Si rischia la crisi cardiaca, infatti. Comunque passeggiate e corse, quindi abbiamo detto, a parte questi dettagli comuni di ordinanze di regioni, per il resto insomma c'è decisamente più libertà. C'è questa ascoltatrice, Carla da Torino. Cara Roberta, dice: non sono riuscita a capire se mio figlio, che abita in Svizzera, può venire a trovarmi per 2 o 3 giorni. Può chiederlo al funzionario? Dipende da dove si trova. Ricordo che ancora per molte regioni è obbligatorio la quarantena. Io immagino in questo caso che il figlio, arrivando dalla Svizzera, faccia visita alla madre per poi ritornare presso il suo luogo di residenza. L'unica questione da verificare è se nel luogo dove si trova la madre è prevista la quarantena o meno. Questo dipende da dove si trova. In Puglia, per esempio, sicuramente no, in altre regioni sì. Dice, questo è un caso un po' particolare, poi purtroppo dobbiamo sintetizzare per lasciarci, terrei lo sa tutta la sera, Laquaniti. Dice questo ascoltatore: faccio parte di un'associazione di protezione civile lombarda, specializzazione cinofili, quindi con i cani. Non riusciamo a capire se possiamo ricominciare l'addestramento dei cani, con quale modalità. Noi addestriamo alla ricerca in superficie, quindi essenzialmente i luoghi di addestramento sono colline e monti. Non so se così nel dettaglio, dottor Laquaniti. Allora, la risposta principale è: bisogna vedere se la loro attività, che qui immagino un'attività in qualche modo censita nei codici Ateco, rientri nei codici Ateco. La prima cosa è vedere se rientra nei codici Ateco e quindi è consentita come tipo di attività. In subordine, l'attività che può essere consentita è un'attività che viene consentita laddove possa avvenire sempre con quei parametri di sicurezza che sono stati indicati nel DPCM, cioè fatta comunque in modo isolato. Questo è un altro aspetto fondamentale. Chiaro. Non sono riuscito a capire se l'attività è svolta in modo tale per cui c'è una tabella con il codice Ateco. Ricordo che, oltre a quelle che sono espressamente consentite, quelle non consentite possono essere, come posso dire, autorizzate comunque dalla prefettura. Quindi il mio primo consiglio per quanto riguarda l'ascoltatore, così risolviamo il problema per lui e per altri, è di rivolgersi alla prefettura e chiedere l'autorizzazione a svolgere quella determinata attività, specificando ovviamente che quell'attività consente il distanziamento imposto e che comunque verrebbe svolta secondo quelle che sono le condizioni stabilite dalla legge. Ricordiamo, e così chiudo, che ovviamente tutte queste attività saranno poi oggetto di controllo anche da parte dell'Ispettorato del lavoro e delle forze dell'ordine. Chiaro, benissimo, qui purtroppo dobbiamo lasciarci, ma per presto ritrovarci. Grazie dottor Girolamo Laquaniti e buon lavoro. For President. Grazie a lei, buona serata. Grazie, a risentirci. A Marica rispondo io, dice: guanti sono obbligatori in Lombardia solo sui mezzi pubblici. A tra poco. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, proseguiamo. Allora, ricorderete forse che nei giorni scorsi vi avevo dato notizia di un movimento d'opinione che è andato man mano crescendo in Italia sotto il nome hashtag, cioè cancelletto, dateci voce. Per la parità di genere in tutte le task force del governo, in ogni commissione, luogo decisionale, istituzionale, per attivare, diceva, questi gruppi, queste associazioni e tutte queste personalità della politica, della cultura, dello spettacolo, quelle politiche di welfare di cui abbiamo assolutamente bisogno e senza le quali le donne del nostro paese si ritroveranno nuovamente a pagare il conto della storia. Questo lo scorso 24 aprile, quanto comunicava il gruppo di donne della società civile che a nome personale, anche in rappresentanza di numerose associazioni, riunito nel movimento Dateci Voce, ha promosso una raccolta firme. E ricordando che il 68% per esempio degli operatori sanitari colpiti da Covid-19 sono donne nel nostro paese, quindi ha sottolineato che le donne lottano e soffrono insieme, donne e uomini, e quindi altrettanto in queste task force devono essere rappresentate. Dimostravano tutto ciò dicendo che solo 4 componenti su 17 sono le donne nella task force di Vittorio Colao, nessuna nel comitato tecnico scientifico della protezione civile, 17 su 76 nella task force della ministra dell'innovazione Paola Pisano. E ricordando che all'estero, dice, rimarrà nella storia che sette paesi che hanno fronteggiato meglio l'emergenza sono governati da donne, hanno concluso le promotrici. Bene, a questo punto è arrivato a questo appello un'ondata di adesioni arrivate da personalità del mondo della politica, della cultura, dell'economia, da Emma Bonino a Carlo Calenda, Laura Boldrini, Valeria Valente, per chiedere di riequilibrare la presenza di genere a partire dalla fase 2. E a questo punto sono migliaia le persone, uomini e donne, che hanno aderito. Ed è arrivato oggi anche l'appello sulle pagine del Corriere della Sera di 16 senatrici, e qualcosa finalmente si sta muovendo, visto che oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto che chiamerà oggi stesso, magari già fatto, Vittorio Colao, coordinatore della task force per la fase 2, e anche analoga telefonata a Angelo Borrelli della protezione civile, per chiedere di integrare nel comitato degli esperti anche uguale rappresentanza femminile. E allora, tra le senatrici che hanno firmato questo appello c'è Valeria Valente del PD, che tra l'altro è anche presidente della commissione parlamentare sul femminicidio. Buonasera senatrice Valente. Buonasera a voi. Quindi, insomma, è chiaro che non è possibile che le regole fondanti della società che verranno consegnate alle future generazioni siano scritte senza le donne, no, Valente? Sì, intanto capire che quello che stiamo attraversando è un passaggio sicuramente delicato di ricostruzione di modelli di convivenza civile, sociale, quindi qualcosa che rimette in discussione questi schemi e ne crea assolutamente di nuovi. Continuiamo a sentir dire che nulla sarà come prima. Molto probabilmente nulla sarà come prima, e non solo per i prossimi 5-6 mesi, ma potrebbe essere meglio o potrebbe essere peggio. Per le donne, per esempio, rischia ad oggi di essere peggio se pensiamo che il 74% delle persone che oggi è tornato a lavorare è di sesso maschile, che molti dei lavori femminili rischiano di saltare, pensiamo a quelli nel settore del terziario, del turismo, oppure che tutte le donne nelle nostre periferie, tante periferie sociali, urbane, che fanno lavoro di badanti, di colf, rischiano di perdere questo lavoro, che sicuramente è quello meno garantito. Tutte le donne che fanno part time, che hanno sicuramente lavori più precari, che adesso alle prese anche con i bambini a casa, rischieranno di essere loro quelli nella coppia e nella relazione a rinunciare al lavoro. Insomma, le donne rischiano di perdere sicuramente più lavoro, di uscire indebolite anche in termini di autonomia e di libertà, di quelle, insomma, conquiste maturate in questi anni. Questo non sarebbe giusto per le donne, ma noi ci affanniamo a dire, non ci stancheremo mai di dirlo, che non è più e non è soltanto una questione di giustizia per le donne. Non utilizzare risorse, competenze, saperi femminili oggi è una perdita, è un prezzo che si chiede di pagare all'intera società, soprattutto in un momento nel quale si riscrivono i modelli, ripeto, di convivenza civile e sociale. Le donne, per esempio, sul tema della cura delle persone, della presa in carico della salute delle persone. Parliamo tanto di sanità di prossimità, di sanità domiciliare, di come ripensare il modello della sanità, se in qualche modo no, il tema della salute possa finalmente tornare centrale, così come il tema della salvaguardia e della cura dell'ambiente, così come il tema delle relazioni, dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, della condivisione. Ecco, tutti i temi sui quali l'elaborazione delle donne probabilmente avanti anni luce o comunque esprime un punto di vista prezioso e diverso, ecco, del quale secondo noi in un momento in cui si riscrivono tutti i paradigmi e i modelli che verranno, l'Italia, il paese Italia ha bisogno. Quindi è un servizio che noi non rendiamo soltanto alle donne, proviamo a capovolgere questo schema, non è soltanto una questione di giustizia sociale che pure c'è, è un servizio che noi facciamo al paese, cioè utilizziamo competenze e saperi che di cui l'Italia in questo proprio preciso momento ha bisogno più che mai. Ricordiamo che le risorse pubbliche che vengono immesse in questo momento nel sistema economico e produttivo italiano non hanno uguali nella storia repubblicana, quindi è evidente che è una fase di passaggio che determinerà quello che sarà. Ecco, in questo momento è prezioso lo sguardo e il punto di vista delle donne, quindi non chiediamo solo più donne nelle task force, ma donne con un preciso punto di vista, che è quello appunto femminile, che in questi anni ha elaborato davvero un pensiero importante e prezioso. È stata chiarissima, senatrice Valeria Valente, non potrei essere più d'accordo. Vediamo allora, però controlliamo che nei prossimi giorni effettivamente qualcosa cambia a partire non proprio da queste task force. Lo dobbiamo alle tante donne che in questi giorni ci hanno sollecitato, e noi come senatrici ci siamo sentite in dovere di accogliere questo appello, di farlo nostro e di rivolgerlo al presidente Conte, che ringraziamo per la sensibilità e l'attenzione mostrata e forse anche un po' un gesto di coraggio. E allora mi aggiornerò con lei, ci terremo aggiornate. Grazie senatrice Valente, grazie, buon lavoro. Arrivederci. Grazie. Chiedo scusa al nostro Marco Valsania da New York, non ce la facciamo con il collegamento. Marco, ma ci sentiamo nei prossimi giorni? Perché non c'è problema. Perché sappiamo che Trump tanto su questa cosa non demorde con la Cina, no? Con gli 007 che dicono di aver trovato documenti di qualche errore grave che è stato nascosto. Un bacio e un abbraccio intanto, Marco. Sicuramente no, a voi. Ti posso dare giusto questo in questo momento. E intanto ci sentiamo tra pochissimo.